Başka nasıl yeri? Altı bir Prendiamoli quelli, i mix. Vedete un po'. C'è un altro problema, abbiamo che voglia Massimo. Sì, ho fatto la